voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Rosi Cassata, dal 1935, la casa nel cuore e nel nome. Nuncas, di Anna Marino. La casa è la coperta magica della nostra vita. Io ho sempre amato molto la casa e fino a quando ero bambina. E guardavo molto il lavoro in casa di mia mamma, di chi magari l'aiutava, e mi sentivo molto attratta. Lo trovavo un mondo particolare, un mondo affascinante. E diciamo che ho avuto la fortuna di mettere queste mie sensazioni, queste mie emozioni nel lavoro. Lo trovo un privilegio questo, perché fare il lavoro che è sempre stata per te una passione è una cosa bellissima. Rosi Cassata racconta così il suo legame con l'azienda di famiglia e con la casa, di cui Nuncas si prende cura. Fondata nel 1935 da Nunzio Cassata, che con il proprio acronimo crea il marchio dell'azienda, Nuncas è una realtà interamente italiana che da sempre fa dell'eccellenza dei propri prodotti un obiettivo, un segreto che si tramanda di casa in casa, con discrezione e fiducia. Nunzio Cassata arriva a Milano nel 1911. È un attento osservatore degli usi e costumi dei suoi contemporanei e un abile imprenditore. Dalla sua intuizione nasce Nuncas, l'azienda che più di 70 anni dopo è ancora leader per qualità, innovazione, cura e dedizione nella produzione di prodotti per la pulizia della casa. Siamo negli anni 30 e Bianchetto White è stato il primo prodotto lanciato dall'azienda e il primo a decretarne il successo, quando nel 1935 il Total White era uno status symbol e il fondatore Nunzio Cassata lo presentò come l'unico che permetteva di sfoggiare scarpe immacolate e perfette. Così Rosi Cassata ricorda le origini milanesi dell'azienda. Nunzio Cassata, che è mio nonno, è venuto a Milano, era un ragazzo molto, mi hanno detto, molto dinamico, molto sveglio, a 25 anni è venuto, ma già a Palermo faceva il commerciante di pellame dall'America, per cui un ragazzo estremamente eclettico. E continuò a fare questo lavoro a Milano, fin quando poi però con l'autarchia non poté più importare pellame dall'America e si creò questo, con un amico chimico, si creò questa attività di fabbricare questo prodotto per le scarpe bianche, un unguento, un'emulsione che si chiamava appunto Bianchetto, che ebbe un certo successo. Diciamo che proprio è nato il Bianchetto perché c'era proprio la moda delle scarpe bianche. Proprio si capisce l'intuito molto brillante di mio nonno, perché si guardò in giro, vide che insomma le scarpe bianche erano di grande tendenza e da un'esigenza lui ha risposto con un'offerta di prodotto. L'ascesa dell'azienda prosegue sotto la guida di Salvatore Pietro Cassata, il figlio di Nunzio Cassata, che grazie alle specifiche competenze in ambito chimico, negli anni 50 arricchisce la gamma con la linea di cere per i pavimenti Livax, un altro successo che conquista subito migliaia di clienti appassionate della propria casa. Negli anni 60 e 70 Nuncas lancia alcuni prodotti davvero innovativi, tra cui la pasta lavamani per i tipografi, il primo ammorbidente per il bucato e i prodotti specifici per i vetri e gli specchi, fino alle cere spray per mantenere i mobili nel tempo. Tutti i prodotti che le permettono di trasformarsi da azienda artigianale a società di capitali, qual è oggi. E dopo ha incominciato subito mio papà a entrare in azienda molto giovane, perché c'era una certa diversità di età tra mio nonno. Il nonno era abbastanza anziano rispetto a mio papà. Papà fu introdotto in azienda molto, molto giovane, e anche lui era un uomo particolare, di grande dinamismo. Era molto minuto, era abbastanza basso anche di statura, ma aveva un fuoco di arrivare. Sempre aveva molta voglia di fare, era sempre in attività. E chi se lo ricorda, veramente era un uomo particolare. Ancora oggi ai vertici di Nuncas c'è la proprietà. L'ingegnere Luca Manzoni, amministratore delegato, e la dottoressa Rosi Cassata, nipote di Nunzio Cassata, direttore creativo, assicurano insieme al team dirigenziale la continuità e il mantenimento nel tempo dei valori dell'azienda. La passione in azienda la mettiamo tutti i giorni, soprattutto io nel mio lavoro di direttore creativo, ed è una cosa particolare che un'azienda di prodotti per la pulizia della casa abbia un direttore creativo. Ma Nuncas, diciamo che è un'azienda che sembra andata un po' controcorrente, e abbiamo creato una filosofia, uno stile di vita per chi? Ma per chi ha passione per tutto quello che fa casa. Possono essere uomini, ci sono tantissimi maschi che hanno veramente passione per la casa, e l'uomo, quando ci si mette d'impegno, è veramente molto preciso e usa anche tanto buon senso. Perché la nostra azienda è anche proprio fatta di tanto buon senso. Non guardiamo mai quello che fanno gli altri, cerchiamo di dire sempre la nostra, in qualsiasi prodotto che lanciamo. I primi negozi a vendere i prodotti Nuncas sono state le drogherie di fiducia delle signore degli anni 40, negozi altamente specializzati che offrivano alla propria clientela prodotti selezionati con cura e una consulenza costante. Rosy Cassata spiega come sono nate le boutique della pulizia. Drogherie e negozi di, ancora mio nonno, i negozi di calzature. Con il famoso bianchetto, ma noi sempre drogherie. Diciamo che non è mai stato nel nostro focus imprenditoriale la grande distribuzione. Ancora oggi il canale distributivo ha una grande importanza per Nuncas, che non segue il trend della grande distribuzione organizzata, ma sceglie con cura ciascun rivenditore come partner dell'azienda stessa, nel vendere e nello spiegare ciascun prodotto particolare. Così Rosy Cassata spiega perché Nuncas non si fa pubblicità. È una scelta e siamo contenti così. Cioè, noi facciamo, non che non facciamo comunicazione, perché noi facciamo dei co-marketing con delle aziende magari di o di cucine o di mobili, facciamo parecchie attività, però non facciamo la comunicazione classica. Di fatto, l'apertura della prima boutique Nuncas a Milano sottolinea ulteriormente il desiderio di creare un contatto diretto e bionivoco con il proprio pubblico. Ecco la parabola delle sedi, a partire dalla seconda generazione. Il padre di Rosy Cassata, che si è formato in modo specifico per sviluppare sempre di più l'azienda. Sì, il papà era perito chimico. Perito chimico, per cui ha sempre avuto passione di fare prodotti della chimica. E incominciarono in un scantinato in via Camperio. Da via Camperio poi si ingrandirono un po', passarono in via Vincenzo Monti, sempre nel centro storico di Milano. Poi ci spostammo verso Abaranzate, di Bollate, vicino a Milano, e poi da Abaranzate siamo passati a Rho. Abbiamo fatto 7 traslochi. Praticamente noi, aprendo la boutique adesso in via Madonnina, è come un ritorno alle origini per noi, no? Io lo dico sempre, adesso da via Madonnina sono ritornata un po', non proprio in via Vincenzo Monti, ma sempre in centro a Milano. E la sede di via Madonnina è la vera passione di Rosy Cassata. L'apoteosi, mi piace da matti quando essere lì in via Madonnina, perché è bellissimo quando entrano le signore o anche i signori che usano i nostri prodotti, mi lasciano abbiamo un libretto dove possono scrivere qualche pensiero, ed è bellissimo vedere i pensieri che scrivono, e diciamo che sempre, spessissimo, paragono la Nuncas a un colpo di fulmine. Vogliono parlare con me, mi fanno domande, e poi io, insomma, ho molta passione anche per tutti. Io metto anche dei piccoli oggettini, delle piccole case di bambole, dei piccoli salottini che vado a cercare nei mercatini, e quando vado lì li sistemo, li metto a posto. Poi io ho un altro negozio a Roma e poi altri due negozi nelle nostre fabbriche, per cui io mi diverto molto. Il quartier generale oggi è lo stabilimento nuovo a Settimo Milanese, all'avanguardia in Italia e in Europa per la sua tecnologia avanzata. È stato volutamente pensato dall'ingegner Luca Manzoni per avere un impatto ambientale minimo, proprio come tutti i prodotti Nuncas. L'attenzione all'ambiente è sempre più presente, soprattutto nella sede di Settimo Milanese. Lo realizziamo tutti i giorni, migliorando sempre le nostre formule affinché diventino sempre meno impattanti sia per l'ambiente che per chi i prodotti li utilizza. E poi abbiamo anche, diciamo che il nostro fiore all'occhiello è la nostra sede, che è a impatto zero. Tutti gli impianti funzionano con pompe di calore e anche con sistemi di di circolo di acqua calda e fredda, in modo tale che l'energia venga prodotta da noi e anzi venduta e poi riacquistata. In Nuncas il passaggio generazionale ha avuto caratteristiche profonde e particolari, come ricorda Rosy Cassata. Mio nonno lo ricordo pochissimo, me lo ricordo solo per sentito dire. Io ricordo invece molto bene mio papà e poi mi ricordo le lotte che ci sono state tra mio papà e mio marito. E il passaggio generazionale è stato molto stimolante, perché mio papà ci stimolava tantissimo, molto severo, ma è stato durissimo. Papà era molto attaccato alla sua azienda e l'idea di dover fare questo passaggio per lui era un grande strappo proprio al suo cuore, perché dicono che le aziende alle quali un imprenditore è più attaccato è quelle che portano il nome della famiglia. Nel nostro caso non è così, però penso che l'azienda ce l'hai nel DNA, ce l'hai nel cuore. Rosy Cassata racconta invece così il suo ingresso in azienda a 23 anni con una formazione nel settore marketing. Io sono figlia unica, non aveva maschi. Femmina, dice, cerchiamo di farle dare alla Nuncas un po' di femminilità. E la donna in cosa è forte? Nei profumi. Il primo prodotto che mi ha fatto fare è una linea di fagottini, si chiamavano così, fagottini profumati. Anche il bilanciamento tra vita e lavoro ha ingredienti familiari, ma bilanciati dai due principali attori della Nuncas, dottoressa Rosy Cassata, direttore creativo, e ingegner Luca Manzoni, amministratore delegato. Siamo una coppia un po', dal punto di vista imprenditoriale, un po' da manuale, perché siamo talmente diversi, c'è proprio una fusione di due mentalità molto diverse, perché lui è ingegnere, per cui mette tutto il rigore, la forza, la caparbietà. Io invece sono un po' più creativa, più leggiadra, no? Penso che questo connubio al momento giusto è stata un po' la formula vincente per noi. E secondo Rosy Cassata, un'azienda come la Nuncas poteva nascere solo in Italia. Ecco il perché. Soprattutto in questi momenti di un po' di crisi, penso che l'italianità è un valore fortissimo. Come imprenditore abbiamo il dovere di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e puntare su dei valori come la tradizione, l'italianità, tutto in fondo, perché la Nuncas è nata in Italia. Io penso perché proprio in Italia abbiamo il culto delle cose belle, delle nostre case, di tutto quello che ci circonda, che fa piacere, che è bello. Penso che in un'altra nazione non sarebbe nata la Nuncas. Per questo Rosy Cassata ha una ricetta di famiglia contro la crisi. Finora stiamo con le dita incrociate, cioè non, finora Nuncas si difende bene. Penso che nei momenti di crisi, anche per quello che mi ha sempre raccontato mio papà, il prodotto per la pulizia della casa è un prodotto che sta un po' in disparte, perché nei momenti un po' di difficoltà le persone amano rifugiarsi in casa, per cui dare ancora valore alle proprie cose. Ovviamente si va incontro a un periodo in cui le persone staranno un po' più attente a quello che hanno, anche i valori, e quello che ci circonda fa parte della nostra vita. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.